as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti i lavoratori, i pensionati, gli studenti e i disoccupati che ascoltano il Pane delle Rose. Oggi giornata dedicata alla Palestina, ci sono state diverse manifestazioni, l'ultima è stata proprio domenica scorsa, è stata bellissima, poi durante la festa dell'Oltre il Ponte. Però noi oggi parleremo della manifestazione che c'è stata a novembre, il 4 novembre a Modena, in cui c'è stata una presenza di delegati sindacali, perché questa manifestazione è stata indetta dall'RSU di alcune fabbriche importanti, di cui poi abbiamo anche intervistato alcuni delegati di queste fabbriche, organizzata comunque anche da Paolo Bini, l'organizzazione sinistra classe rivoluzione di Modena. Paolo Bini è un funzionario della FIOM, segue alcune fabbriche che hanno aderito a questo appello dei sindacati palestinesi, in cui c'è proprio un appello a tutti i lavoratori a mobilitarsi in difesa della Palestina, in difesa e contro il genocidio che sta accadendo oggi in Palestina. Io ho partecipato, l'intervista l'ho fatta dopo, giorni dopo, perché quel giorno lì era nel servizio d'ordine, eravamo organizzati come lavoratori della Buonfiglioli, siamo andati là, chiaramente c'erano diversi lavoratori arabi, era molto forte la presenza della comunità islamica di Modena, che insomma si è organizzata insieme ai compagni sinistra classe rivoluzione per poter, e l'RSU di alcune fabbriche della FIOM, per organizzare questa bella manifestazione che ha visto quasi 2000 persone, che per Modena sono tantissime persone, insomma, organizzata poi in 5 giorni. I delegati intervistati non lo dicono, ma io lo dico io, perché il messaggio mi è arrivato a me di se volevo partecipare insieme ai miei compagni della fabbrica dove lavoro io e ad altri che sono venuti, c'erano anche altri lavoratori da Bologna che sono venuti 5 giorni prima della manifestazione. Ora io adesso vi saluto, ci ascoltiamo il violino di Vic, Vittorio, non dimentichiamo, ucciso a Gaza, purtroppo per gli integralisti islamici, e poi ascoltiamo le varie interviste, la prima fatta a Giuseppe Violante della Maserati, la seconda a Matteo Parlati della FIOM Ferrari e la terza a Paolo Bini, che diciamo è il funzionario FIOM che ha organizzato tutto questo, tra gli organizzatori di tutto questo. Vi saluto e ci sentiamo dopo. Ok, ciao. Soffia il grido dell'anakba, fra olivi e vigneti, la scusa della razza e alibi di intrighi. Roccia sionista di muri e bantustan, odi ortodossi e fondamentalisti. Per i popoli del mondo senza confini né galere. Fucile, i versi di Darwish coltivano le pietre. Intifada, intifada, canta il violino della nostra libertà. Intifada, intifada, canta il violino della nostra libertà. Intifada, intifada, canta il violino della nostra libertà. Ciao Giuseppe, delegato della FIOM della Maserati di Modena, tu sei stato tra quei delegati che insieme a me è sceso in piazza il 4 novembre per la Palestina. Contaci le motivazioni, quello che vi ha spinto, perché non eri da solo, a scendere in piazza per la Palestina, e secondo te com'è andata la manifestazione? Parto dall'ultima domanda. La manifestazione ha avuto un gran successo e di conseguenza anche un gran risalto. Si è vista la partecipazione di almeno 2.000 persone in piazza, cosa per nulla scontata in una città come Modena. Si è vista l'importante partecipazione di giovani italiani insieme a giovani arabi, e sto parlando soprattutto di studenti, ma anche ovviamente della gran presenza di lavoratori italiani che insieme ai lavoratori arabi, provenienti da diverse realtà lavorative, ma soprattutto dalle realtà metalmeccaniche, hanno rubato la piazza della città di Modena. E questo era un obiettivo che noi come delegati ci eravamo prefissati sin dall'inizio, e attraverso il nostro appello che abbiamo fatto girare abbiamo voluto dare delle rivendicazioni chiare e precise rispetto a tutto quello che sta succedendo, appunto rispetto al conflitto israelo-palestinese, soprattutto rispetto a una fase come questa dove regna sempre di più la confusione e tante cose non vengono dette perché non si vogliono dire. Una cosa credo singolare e importante che è venuta fuori da questa iniziativa, da questa manifestazione, è l'unione tra due aspetti, due elementi. L'uno fortemente religioso, rappresentato dalla cultura musulmana nonché dalla comunità islamica legata alle moschee, legata alla presenza araba in piazza, e l'altro fortemente politico, voluto dalla nostra iniziativa lanciata da noi come delegati sindacali, ma soprattutto come militanti politici. E abbiamo fatto sì che questi due elementi stessero insieme in una piazza così importante, sotto un unico obiettivo, sotto un'unica bandiera, che era quella appunto della liberazione del popolo palestinese dal soggiogamento dell'imperialismo dello Stato di Israele. E le idee che c'erano in piazza erano molto chiare, quella appunto di lottare contro tutti gli imperialismi, soprattutto quello americano, di cui lo Stato di Israele ne è una costola. Le motivazioni poi da cui siamo partiti è che di fronte a tutto ciò c'è un silenzio assordante, o meglio si tace sulla verità dei fatti. Nel campo della sinistra, da una parte, non c'è nessuno che dice esattamente le cose come stanno, se non per dire che l'unica soluzione è quella di avere due popoli in due stati. È chiaro che questa è una soluzione che non potrà mai sussistere, fin tanto che hai in campo una sproporzione di forze dove da un lato c'hai uno Stato come quello di Israele che militarmente ed economicamente sovrasta senza alcun dubbio quello del popolo palestinese. Quindi su quale basi propagandi il fatto di avere due popoli in due Stati? E l'altra cosa invece poi che abbiamo la CGIL che propone dall'altra parte la pace, che ipocritamente abbraccia una posizione neutrale. È la stessa cosa, è lo stesso discorso che si fa per due popoli in due Stati, ma su quali criteri, su quale basi propagandi la pace? Non puoi propagandare una roba del genere se comunque hai un popolo come quello palestinese che subisce l'occupazione da tanti anni e continua a soffrire, continua a subire soprusi, vessazioni da uno Stato imperialista come quello di Israele. Per cui è chiaro che qui l'unica soluzione è quello che diciamo noi, è che ci sia la ribellione e che questo popolo si continui a ribellare. È come dire, ha il diritto uno schiavo o uno che subisce soprusi da parte del suo padrone di ribellarsi? E questo è il punto di domanda da cui dobbiamo partire. Per cui giusta la ribellione di questo popolo, è giusto che ci sia l'intifada fino alla vittoria. Allora, abbiamo qui Matteo Parlati. Chi segue il Pane Rose sa che Matteo Parlati è stata la prima persona che mi ha invitato in radio, delegato della FIOM della Ferrari. Sei stato insomma, il personaggio della puntata pilota del Pane Rosa ci hai portato bene. E al vostro appello, insieme all'appello di altri delegati della FIOM di Modena e anche alcuni funzionari, siamo venuti il 4 novembre a manifestazione pro-Palestina. Eravamo lì, eravamo insieme. Hai letto l'appello dei sindacati palestinesi? Insomma, spiegaci, come hanno fatto altri, le ragioni del fatto che vi hanno portato a scendere in piazza, come delegati FIOM di fabbriche importanti, la questione dell'appello, visto che tu sei stato tra i primi sostenitori di questo appello dei sindacati palestinesi, e ti chiediamo anche le tue impressioni di quello che accadrà, se ci saranno altre manifestazioni e di come è andata quella in cui tu sei stato tra i protagonisti. Ok, grazie mille, Matteo. Buonasera Gian Placido e buonasera a tutti gli ascoltatori, ma come si dice, a volte ritornano. A me fa sempre molto piacere intervenire nella tua trasmissione, che la trovo veramente di alto livello, e ho ascoltato anche gli interventi di altre personalità che sono succedute, vuol dire che crea veramente dibattito. Mi ha fatto molto piacere vederti con noi all'interno della manifestazione del 4 novembre a Modena. E io direi che le ragioni per cui abbiamo chiamato quella manifestazione sono semplici da un lato e complicate dall'altro. Semplici perché se guardiamo a quello che sta succedendo è che sono 75 anni che succede al popolo palestinese, è semplice schierarsi col popolo palestinese. Complicato perché, come dire, c'è una propaganda di equidistanza anche da parte delle organizzazioni storiche del movimento operaio. Non cito, come dire, le organizzazioni politiche perché ormai non dico che sono disintegrate, ma poco ci manca, perché non possiamo dire che il PD sia un'organizzazione dei lavoratori. Ed è complicato soprattutto perché tutto l'Occidente è schierato ormai da anni con i governi reazionari israeliani, e questo per me per motivi meramente economici. E quindi si fa una propaganda contro, diciamo, qualsiasi anche appello, volendo, che viene lanciato per il popolo palestinese. Guardiamo solo cosa è successo in Francia, guardiamo cosa è successo anche ad alcuni compagni inglesi che si sono trovati nei distretti di polizia con accuse assurde solo per aver detto la verità, cioè che Israele sta compiendo un genocidio verso i palestinesi. Noi qui a Modena, ma credo che l'appello sia girato un po' dappertutto, l'appello dei sindacati palestinesi, abbiamo deciso di aderire senza se, senza ma, perché è un appello fortemente di classe. Pensiamo solo a quello che potrebbe succedere se queste rivendicazioni diventassero non nostre di delegati, come dire, autoconvocati, ma della CGIL. Tutte le armi non verrebbero più esportate verso Israele, ci sarebbero degli scioperi dei lavoratori che si rifiuterebbero di costruire le armi destinate a questo conflitto. Ci sarebbe un'unità di classe, una cosa che spaventa molto i padroni, soprattutto un'unità di classe in quelle zone, che è, diciamo, l'unica arma che noi possiamo trovare in questo momento per avere una pace reale, perché una pace in senso borghese non si avrà mai in quei territori. Quella del 4 novembre è stata, che mi ricordi io, una delle manifestazioni più partecipate da quando sono a Modena. Io sono a Modena da 20 anni, probabilmente è la più partecipata di quella chiamata da organizzazioni politiche. Quindi la questione palestinese è molto sentita fra i lavoratori. È stato anche un ottimo esempio di come ci si debba organizzare nel futuro, a partire da quello che è stato un servizio d'ordine che è stato veramente, veramente fantastico, cioè una manifestazione che si preannunciava, no, come rischiosa, in cui la questura ha cercato anche a un certo punto di bloccarla, di farne solo un sit-in. Il servizio d'ordine è stato una cosa spettacolare, fino ad arrivare poi a quelli che sono i rapporti con l'opinione pubblica e come strutturare gli interventi e anche la propaganda. È chiaro a tutti, credo, l'intento genocida del governo israeliano, per questo ci aspettiamo che, in vista anche di un'escalation di repressione del popolo palestinese, si debbano creare le condizioni per cui si riesca a costruire una rete attiva fra i lavoratori per fare di quell'appello, dell'appello dei sindacati palestinesi, un manifesto programmatico. Come dicevo, la pace va costruita su basi di classe. Si è farneticato tanto sulla pace fra Israele e la Palestina. Se in 75 anni non si è trovato il metodo, chiaramente è stato perché non si può fare su basi borghesi, interclassiste, ecco. Io ti ringrazio nuovamente per aver pensato a me per questo intervento e ti auguro buona continuazione della trasmissione. Ciao a tutti. Ciao Paolo. Oggi con te non parliamo di musica, non parliamo di sindacato, ma parliamo di questioni internazionali della Palestina. Funzionario FIOM di Modena, sei stato tra i pochi funzionari FIOM di Modena a organizzare e a scendere in piazza il 4 novembre per la Palestina. Sei stato tra gli organizzatori. Raccontaci un po' quello che ha fatto sì che tu, insieme ad altri compagni, alcuni delegati, siete scesi in piazza, avete chiesto anche ad altri, come avete fatto con me, di scendere in piazza, e le motivazioni di questa manifestazione e come è andata soprattutto. Ciao Gianplacido, grazie per l'invito e l'ospitalità. La manifestazione organizzata sabato 4 novembre è stata una manifestazione promossa e proclamata dalle RSU, delle fabbriche più importanti di Modena, tra cui Ferrari, Maserati, Bosch, Motovario, Hannover Reverberi. E a questa manifestazione, diciamo, in quanto funzionario per la FIOM, sì, c'ero solo io. Questo perché sostanzialmente l'organizzazione, ma la CGIL in generale, ha assunto all'ultimo direttivo nazionale una posizione di sostanziale equidistanza tra Israele e Palestina, dicendo che appunto l'unica bandiera che si porta in piazza è quella della pace, e quindi evidentemente non poteva essere presente a una manifestazione che invece è una manifestazione apertamente a sostegno della Palestina, del popolo palestinese, e che parte da un dato di fatto, e cioè che, nonostante la brutalità dell'atto di Hamas, sono 75 anni che il popolo palestinese è un popolo oppresso e che lo Stato sionista israeliano opprime questo popolo, e questa cosa non può essere cancellata, deve essere il punto di partenza di qualsiasi ragionamento. E è una manifestazione per dire basta a questa situazione di evidente tentativo di pulizia etnica che sta portando a una seconda Nakba, e che ha l'evidente scopo di cacciare nuovamente i palestinesi dalle loro terre per, come dire, proprio un'aspirazione di conquista da parte dello Stato sionista al prezzo di migliaia e migliaia di morti. Siamo oltre i 10.000 ormai, di cui almeno la metà bambini, e il 70% fra donne e bambini, appunto. Quindi questa è la ragione che ci ha portato in piazza, per rivendicare la fine dell'occupazione israeliana, ovviamente la fine di questa operazione vergognosa di guerra, per rivendicare il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e per gridare Palestina libera, perché l'unica soluzione è quella di una unità degli oppressi, degli sfruttati, israeliani, palestinesi e di tutto il mondo arabo, contro i colpevoli di questa situazione, che sono innanzitutto ovviamente il governo sionista ultra reazionario, che c'è in Israele, ma anche ovviamente con la complicità degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e anche la finta solidarietà dei governi del mondo arabo nei confronti dei palestinesi, che in realtà appunto stanno semplicemente facendo finta, ma usano tutti strumentalmente da sempre la causa palestinese per i propri interessi. Quindi queste sono le ragioni che ci hanno portato in piazza. È stata una manifestazione straordinaria, 2000 persone in piazza Modena, erano molte decine d'anni, insomma dall'inizio degli anni 90 che non si vedeva, e credo che questo sia un segnale che deve essere tenuto in considerazione, anche perché la manifestazione era anche contro ovviamente le politiche del governo italiano di sostegno a questo macello che sta combinando il governo sionista. E quindi io mi auguro che la CGIL si ponga delle domande precise, perché la gente è in piazza per dire Palestina libera, e la CGIL non c'è in queste piazze perché ha assunto appunto la posizione che dicevo prima di equidistanza, e credo che su questo meriti una riflessione, e bisogna che la CGIL faccia un passo indietro rispetto alla posizione che ha assunto il 18 di ottobre al direttivo nazionale. Questo è quanto. Liebe Palästina, o grossa Zionismen, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe Palästina, o grossa Zionismen, liebe Palästina, o grossa Zionismen. Och vi har odlat jorden, och vi har skördat vetet, och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna, och vi har plockat citronerna, och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord, och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina, leve. Vive Palestina, vive Palestina, o grossa sionisten. Vive Palestina, o grossa sionisten. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Och vi ska befria vårt land Från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land Till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna. Leve Palestina, leve Palestina, leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Sionismen. Liebe Palästina, o grossa Zionismen. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, o grossa Zionismen. Liebe Palästina, o grossa Zionismen. Och vi har odlat jorden. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. sa tu libertà. Ohi la verden, schenner til vår jord. Ohi la verden, schenner til vår jord. Liebe, liebe, liebe Palestina. Liebe, liebe, liebe Palestina. Allora, vi ho ascoltato una bellissima canzone palestinese, svedese palestinese, Fria Palestina. Ora voglio solo dirvi due cose. Hanno detto tutto i delegati, io penso che questo appello fatto dai sindacati palestinesi debba essere preso da tutti. La cosa importante erano detto i compagni, le cose possono cambiare solo se Israele cambia radicalmente. Oggi sempre di più purtroppo si fa avanti l'idea di uno Stato socialista in Israele che non si chiama Israele, che non abbia la bandiera di Israele ma magari una bandiera rossa che unisce tutti i lavoratori palestinesi, arabi israeliani, israeliani, immigrati. Voglio ricordare a tutti quanti una cosa che non si dice mai: Israele non ha una costituzione, perché non la può avere, perché se dovesse scrivere una costituzione finalmente dal 48 la deve scrivere, non la scrive. Dovrebbe scrivere che tutti quanti sono uguali davanti alla legge, e in Israele questo non accade. Questo è il problema principale. E questo, c'è questo odio, c'è questo, sono questi problemi che non finiscono mai. Non serve una lotta di classe che deve essere internazionale e portare veramente il punto di vista dei lavoratori palestinesi e anche israeliani che non vogliono questa guerra come la cosa principale. Io spero che questo accada. Con questo auspicio io vi lascio e ci sentiamo alle prossime puntate per altri argomenti. A presto, ciao compagni. Live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina, o grossa sionismen. Live,